Torniamo in voce quando sono le 11:47 minuti dai microfoni di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con Casal Boccone. Pronto, mi senti? Sì, ciao Elena. Ciao, ciao. Senti, ci puoi raccontare un po' come stiamo, stiamo parlando con voi, appunto, ricordiamo a chi ci ascolta, perché era in atto uno sfratto e c'è appunto un presidio. Mi stavi dicendo che vi state spostando, ci racconti un po' la situazione. Allora, praticamente è successo questo. C'è, questo è un immobile dell'Elena Sarco che, come tutti sappiamo, insomma, è andato, stanno vendendo questi appartamenti, dove la gente che ci vive da 30 anni praticamente, con l'aumento dell'affitto, del contratto di affitto spropositato, non riescono a pagare. Questo è un caso particolare perché tra l'altro non c'è morosità nello sfratto che è stato fatto. E praticamente viene a mancare il diritto di prelazione sulla vendita e sulla compravendita dell'immobile. Allora, siccome è già il quinto passaggio dello sfratto, abbiamo fatto questo presidio per impedire che lo sfratto andasse oltre, perché questa situazione a Roma è diventata veramente, veramente difficile e impossibile da vivere. Questo è un segnale importante, perché sarà sempre così per ogni sfratto che ci sarà a Roma. Interverremo con forza e decisione per impedirli, perché la situazione è drammatica. Ogni cittadino, ogni emigrante, ogni persona che vive nel precariato non riesce ad andare avanti e va a finire a vivere sotto i ponti o in macchina, e non è possibile questa situazione. Risposte non ce ne danno, e finché ci saranno queste situazioni noi ci lotteremo senza risparmiare forze. Sì. Andremo avanti e daremo un segnale forte alla città per ottenere la cosa più importante, che è la moratoria sugli sfratti, perché ci hanno preso in giro, hanno fatto una finta moratoria che riguarda praticamente tre città in Italia: Roma, Milano e Napoli, e soprattutto non per le morosità, ma le morosità sopravvengono perché non c'è lavoro, non c'è possibilità di pagare l'affitto, non perché magari qualcuno prova a fare il furbo. E questa situazione chiaramente politicamente non c'è nessuna risposta. Adesso sotto elezioni nessuno parla di questo problema, che è comune in tutta Italia. Parliamo di Brescia, di Bergamo, di Milano, di Torino. Torino è la città come numero di sfratti superiore in tutta Italia, e non c'è nessun personaggio che si prende lo schiribizio di pensare di risolvere questo problema o di parlarne addirittura. La nostra lotta sarà sempre questa e andrà avanti fino a oltranza, fino alla fine. Senti, finché non otterremo questa moratoria, che è la cosa più importante. Noi siamo un movimento per la casa, la lotta all'abitare, e interverremo continuamente. Senti, il presidio di questa mattina è andato molto bene, molto partecipato. Il presidio di questa mattina era molto partecipato, sono intervenute le forze dell'ordine anche, insomma, abbastanza numerosi, perché erano tre blindati. Noi eravamo circa 300 persone e abbiamo presidiato. C'è stato un attimo che si è alzato il limite della tensione, però siamo riusciti comunque a ottenere un rinvio per il momento dello sfratto, ma il 26 è stato rinviato al 26 o al 27, non ricordo adesso bene. Sarà la stessa cosa, saremo lì di nuovo, presideremo di nuovo questo tentativo di sfratto e lo impediremo con forza e decisione. E è intervenuto, chiaramente c'era l'Asia, perché noi siamo i blocchi di precari metropolitani in appoggio all'Asia, siamo arrivati proprio per dare questa forza e questa decisione e questo segnale importante. Senti, adesso il presidio si sta sta finendo in questo momento? Allora, praticamente sì, sta quasi finendo, perché praticamente c'è stato l'incontro tra l'avvocato che si occupa in difesa dello sfratto e l'ufficiale giudiziario, e hanno appunto raggiunto questo accordo di questo rinvio, anche perché, ripeto, questo è uno sfratto che è stato chiesto non per morosità, tra l'altro, ma perché l'immobile è andato in vendita, però non è stato esercitato il diritto di prelazione dell'inquilino. Quindi significa che lui, che ha 3 anni che vive in questo appartamento, arriva per la speculazione che c'è economica dietro tutti questi discorsi, arriva una persona X che compra l'appartamento, perché chiaramente lo vendono non a prezzo scontato come è di diritto nella prelazione, ma a prezzo di mercato. Questo significa più soldi, più speculazione, e quindi non vengono esercitati i diritti del cittadino, e deve finire questa storia. Bene. Non è possibile. Senti, ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti anche insomma per la lotta per la casa, per il diritto all'abitare, come sempre. Fra l'altro, insomma, in questo momento sembra anche un tema particolarmente, come dire, all'ordine del giorno. Forse il clima elettorale, come dire, non facilita chi lotta per il diritto all'abitare, perché qua c'è chi, insomma, si vuol forse, come dire, mostrare con il pugno duro, no, in clima elettorale. Ma questo è una situazione che si verifica praticamente durante ogni periodo dell'anno. Sicuramente il fatto di vivere le elezioni in questo periodo non ci aiuta, perché comunque pensano alla loro pubblicità, a farsi eleggere, e chiaramente la città momentaneamente rimane in mano all'ordine pubblico, e quello è un problema, che ripeto, come oggi per un attimo si stavano alzando i toni, e quindi siamo riusciti comunque a instaurare una trattativa che ci ha permesso di portare a casa questa vittoria, anche se temporanea, però comunque è una vittoria, questo è importante, insomma è un segnale forte che comunque i cittadini, le persone comunque si stanno ribellando a questa situazione. Certo, e niente, come voi sarete in piazza e noi saremo in piazza, i microfoni di Radio Onda Rossa saranno aperti per la lotta per il diritto all'abitare, quindi ci risentiamo presto. Ok, ti ringrazio. Grazie a voi. Forza. Ciao. Ciao.